Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È cominciata l'invasione romana da parte dei tifosi del Manchester e del Barcellona, che domani sera all'Olimpico si sfideranno, sapete, per la conquista della Coppa Campioni. È la prima avanguardia di tifosi, sono arrivati grosso modo una quindicina di voli charter, ma altri ne seguono in giornata. Il grosso poi è previsto per domani, quando nei due scali romani arriveranno circa 50.000 tifosi con 150 aerei. Tutto tranquillo per ora, è arrivata anche la squadra del Barcellona. Noi siamo collegati con la redazione di Sky Sport 24 a Roma, dove troviamo Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Intanto com'è rientrare nella mischia dopo tanto tempo di studio un po' surgelato? È molto bello ed è molto diversa la temperatura, perché lo studio surgelato è veramente la cosa più opposta possibile allo studio che abbiamo qui allo stadio, ma non per colpa nostra, ma per merito, mettiamola così, di un caldo veramente pazzesco, perché anche oggi è una giornata, ma non scopro certamente nulla, perché i telegiornali in questi giorni non parlano d'altro. Fa veramente molto caldo, credo che farà così caldo anche domani sera e che quindi sarà un fattore importante. Poi è chiaro, si gioca alle 20:45, però la temperatura non potrà non essere molto molto elevata. Un fattore climatico che potrebbe, entro certi limiti, perché queste cose poi vagano fino a un certo punto, ma entro certi limiti potrebbe dare una mano al Barcellona. Teoricamente sì, più abituato a questi climi. Il Barcellona oggi si allenerà anche il Manchester United. Il Manchester United è arrivato ieri, il Barcellona arriva invece oggi. È evidente che questo è un clima molto più vicino al clima spagnolo rispetto al clima inglese. È anche vero che il Manchester United ha un'esperienza totale, quindi non credo che si farà condizionare. Bisogna vedere, perché una squadra si allena alle 18, una squadra si allena alle 20. Alle 18 qui farà ancora molto caldo. Ah, sicuro. E quindi può anche essere che sia una seduta semplicemente di palleggi e, come dire, di presa di conoscenza del prato dello stadio, che stanno rasando di nuovo. Lo hanno pettinato ieri mattina, lo stanno facendo anche adesso, ci hanno raccontato che ci mettono più di 4 ore a sistemarlo tutto. Ho avuto anche l'onore e la fortuna di metterci sopra i piedi. Beh, ed è un tavolo da biliardo veramente leggendario, cioè non si può non giocare bene a calcio su un tappeto così. Più tardi sentiremo la vigilia del Manchester sul Côté Nicola Roggero. La vigilia ambientale, ma se vuoi anche tecnica, con queste due o tre assenze difensive del Barcellona, come si presenta? Guarda, sono assenze pesanti. A me è tornata alla memoria la finale del 94, quando ad Atene il Milan dovette giocare la finale di fatto con i due centrali fuori e vinse 4-0 contro un Barcellona che aveva Guardiola in campo, tra sì, l'altro. È vero. Guardiola deve sostituire Dani Alves, deve sostituire Marquez e deve sostituire Abidal, quindi gli mancano di fatto i due esterni e gli manca un centrale forte, e quindi dovrà rimescolare tutto. Le sensazioni possono essere che Yaya Touré giocherà centrale accanto a Pujol, oppure Pujol giocherà a destra e ci sarà un altro inserimento, magari Caceres. In ogni caso, con 3 difensori su 4 in tribuna a guardare la partita, il Barcellona è pesantemente penalizzato da questo punto di vista. Dall'altra parte sappiamo che ci sono Rooney, Cristiano Ronaldo, Tevez e Berbatov, quindi credo proprio che il Barcellona dovrà fare una partita memorabile a centrocampo, dovrà cercare di tenere la palla il più possibile. È banalissimo questo, ma finché tu hai la palla non ce l'hanno gli altri, e cercare di andare ancora più veloci, soprattutto per quanto riguarda l'innesco dei giocatori in attacco, perché se la gara la fa il Manchester United, con quella difesa il Barcellona può andare molto in sofferenza. Ma molto in sofferenza, ho l'impressione. Sì. Le due vigilie le stiamo vivendo, le antivigilie sono state due impegni di campionato in cui tutte e due, già campioni rispettivamente di Spagna e Inghilterra, hanno schierato i rincalzi, con una fondamentale differenza. I rincalzi dello United contro la City, e poi ne parleremo in dettaglio con Nicola Roggero, hanno vinto la loro partita nonostante qualche polemica della vigilia. I rincalzi del Barça in casa hanno perso con lo Osasuna, e mi sembra che abbiano inquinato non poco la classifica in zona retrocessione spagnola. Guarda Gigi, io ogni tanto sono tentato di tirare una riga sulla mia cartina geografica per vedere al di sotto e al di sopra della quale c'è della sportività fino in fondo oppure meno. Tendo a pensare che sia proprio il canale della Manica a fare da spartiacque, cioè che dal Regno Unito in su, e quindi ci metto Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e quelle latitudini, L'interpretazione è diversa, poi so già che qualcuno ti scriverà però gli europei in Portogallo, il famoso biscottino, certo. Va bene, quindi è vero che non sono tutti perfetti, è l'eccezione che conferma la regola, è l'eccezione che può confermare la regola, però è un dato di fatto che il Barcellona non può perdere in casa con lo Osasuna e certamente non aveva delle motivazioni, non voleva infortuni, però è così anche per il Manchester United ha giocato con moltissimi rincalzi, ma questi hanno giocato una partita fantastica. Gibson ha fatto un gol meraviglioso, al City sarebbe retrocesso se il Newcastle non si fosse suicidato. E poi Nicola vi racconterà, perché questo non succede solo quest'anno, ma ci sono degli esempi anche più clamorosi nelle scorse stagioni. Comunque c'erano quattro squadre che lottavano per salvarsi in Inghilterra e hanno perso tutte e quattro, perché anche il Chelsea ha vinto, certo. Il Manchester United ha vinto, è veramente tutto diverso. Evidentemente gli italiani, come gli spagnoli, come i greci, come i turchi, così, quando arrivano le ultime giornate, non so bene come catalogare i francesi, ecco, non ho una conoscenza così dettagliata del campionato francese, però onestamente c'è una differenza importante che temo anche da questo punto di vista sia quasi incolmabile tra il nostro calcio e il loro. E quando dico nostro dico anche quello spagnolo. Sì, certo, il calcio latino, sì. In linea di massima il calcio latino. Diciamo che si presta di più, chiudiamola così. Sì, però ecco, non vorrei che poi gli ascoltatori pensassero che noi stiamo teorizzando delle truffe, delle combine, quali c'è lo scambio del denaro, è semplicemente un andazzo. È semplicemente un modo di comportarsi che è completamente diverso, cioè in Inghilterra non succede e in Italia e in Spagna succede, fermo restando che non credo, anche se magari qualche cosa ci possa essere stata, cioè non credo che ci siano degli accordi così pesanti e così dettagliati, è una consuetudine, mettiamola così, che purtroppo quando si ripete diventa quasi la norma. E questo non è bello. Rimane il fatto che l'Osasuna domenica va a giocare a Barcellona, vince la partita di Barcellona, che evidentemente è una di quelle in cui i punti li lasci, te li dimentichi prima di scendere in campo, e invece ne mette insieme tre e inguaia almeno altre 5-6 squadre adesso nell'ultima giornata. A quest'ora... Gigi, l'ultima giornata l'Osasuna gioca contro il Real Madrid, un'altra squadra in vacanza. Ora io mi auguro che insomma che ci sia una chiamata di responsabilità nei confronti di tutti, insomma, perché altrimenti il campionato è veramente falsato. Beh, insomma, il Real ne ha presi tre in casa dal Mallorca all'ultima giornata, c'è stata questa grande festa popolare del pubblico del Bernabeu nei confronti di Cannavaro, standing ovation e altre tre pere prese dalla difesa guidata da Cannavaro. Sì, il sospetto è che fossero contenti che se ne andasse, ma è semplicemente una battuta. Prendetela. È stata una bella giornata, anche lì il paragone col saluto a Paolo Maldini francamente imbarazzante per noi. Fabio, io avrei ancora un capitolo che è il capitolo tedesco, visto che stiamo ripercorrendo, ormai è tutto superato, siamo alla vigilia della finale di Champions, però mi sembra che quello che ha combinato quest'anno il Wolfsburg in Germania, il suo allenatore, la sua coppia centrale di attaccanti, la coppia difensiva di italiani esportati giusto l'estate scorsa, valgano un racconto e anche qualche riflessione forse. Beh, la riflessione è che a memoria mia una squadra che ha due attaccanti che vincono la classifica dei cannonieri è un qualcosa di straordinario, la vincono perché Grafite ha segnato 28 gol e Dzeko ne ha fatti 26, quindi di fatto l'hanno vinta tutte e due. Adesso ci saranno certamente degli altri esempi, però a me non ne vengono molti. Comunque sono 54 gol in due, la coppia centrale di attaccanti. Sono veramente tanti. Il Wolfsburg ha perso 7 partite come il Bayern di Monaco, ne ha vinta una in più e ne ha pareggiata una in meno, e forse la differenza l'ha fatta proprio quella vittoria all'Allianz Arena. Un Bayern di Monaco che è arrivato a 2 punti dal titolo, ma ricordiamoci tutto il campionato che era stato caratterizzato nel girone d'andata da questo Hoffenheim che era stato largamente in vantaggio e poi Ibisevic l'ha venduto, un altro gli si era infortunato, quindi sostanzialmente gli sono venute a mancare le munizioni. L'Hoffenheim ha fatto un eccellente campionato, ma ha fatto 55 punti che non sono pochi. Il Wolfsburg ha vinto in una stagione nella quale Magath a 4 giornate dalla fine ha detto che sarebbe andato via. L'abbiamo definita la più italiana delle squadre tedesche, non tanto e non solo per la presenza di Barzagli e Zaccardo, ma anche per la nutritissima presenza di immigrati italiani che hanno fatto una grande festa nella città della Volkswagen, quindi l'impresa di Barzagli è francamente importante, perché è un giocatore che ha fatto comunque un campionato di riscatto. Io lo ricordo nell'ultima stagione al Palermo e mi stupivo come fosse calato, come fosse davvero in difficoltà anche con avversari modesti. Il campionato di Zaccardo è leggermente inferiore, non ha giocato la partita finale, la passerella finale col Werder Bremen, ma comunque insomma è un giocatore che ha fatto bene, che è andato in un campionato importante, non è un campionato di secondo piano la Bundesliga, e ha fatto comunque molto bene. Quindi insomma complimenti al Wolfsburg, perché la riflessione vera che dobbiamo fare in questo momento è che la Spagna non riesce più a produrre nulla oltre a Barcellona e Real Madrid. In Italia c'è il dominio dell'Inter, certo. In Inghilterra dopo la dinastia del Chelsea è tornata quella del Manchester United, la Bundesliga e il campionato francese almeno per quest'anno hanno un po' di ricambio, che è quello che sale. Riflessione accessoria proprio su Felix Magath, ma oltre che su di lui, sul costume tedesco. A un mese dalla fine, lo ricordavi tu, del primo possibile scudetto ad una squadra di provincia, e quindi mettiamoci nei panni del, non so, il Palermo non ha mai vinto un campionato, faccio per dire, no? Ma fai conto che... il Verona di Bagnoli 24 anni fa, per fare un esempio concreto, oppure Ballardini quest'anno, visto che Barzagli e Zaccardo arrivano da lì, a un mese dalla fine sono in testa alla classifica, e l'allenatore, quindi Bagnoli a loro, Ballardini oggi, dice: ah, a proposito, volevo dirvi, io un altro anno vado a allenare lo Schalke 04. Cioè, contavi i morti fino al terzo piano, credo, qua in Italia. Se tu pensi che da noi non si può dire che Ancelotti va al Chelsea perché destabilizzerebbe l'ambiente, perché cioè, anche qui veramente siamo a distanze siderali. Io onestamente ti dico, non sono molto convinto che sia giusto in corso d'opera annunciare dei cambi di casacca. Certo, sarebbe come se tu dici: io finisco la stagione, però da un altro anno vado alla Rai. Vado alla Rai. Cioè, voglio dire, sono cose diverse, perché lo sport è diverso dalla professione che tu svolgi, che io svolgo. Però diciamo che può anche non essere il massimo dell'eleganza. La cosa importante è che non condizioni nessuno, e certamente la situazione del Wolfsburg non è stata condizionata. Grazie Fabio. A voi. C'è una, tra i tanti messaggi già arrivati sul display, ce n'è uno molto personale, un consiglio che mi dà Andrea Ter da Milano, e dice: dichiari che Murdoch le chiede di passare a Sky, ma che al 99% lei resta a Radio 24, magari le danno un aumento. Già, e se poi Murdoch dichiara che non mi ha mai cercato, come ha fatto l'altra sera a Florentino Perez, come finisce? Finisce che faccio una figura di niente, come dicono a Napoli, esattamente come ha fatto un celebre allenatore, con una differenza, che anche con quella figura lì, poi con l'Inter è finita molto bene. C'è il dubbio se l'aumento l'abbia avuto o meno, ma in ogni caso è uscito indenne. Secondo me al Sole 24 Ore sono, per dirla con le parole di Mourinho al suo debutto in Italia, sono meno pirla, secondo me, e quindi non so se finirebbe benissimo. A proposito di questa vicenda, il racconto e il commento di Fabio Monti sul Corriere della Sera di oggi, poi subito dopo l'intervallo ci saranno parole non meno dure riguardo al Milan di Alberto Costa. Allora, Fabio Monti: la conclusione della vicenda è stata gestita nel peggiore dei modi possibili, con l'accordo pronto dal pomeriggio che doveva restare segreto sine die, finché l'entourage di Mourinho, e cioè il suo procuratore e il suo addetto stampa personale, con l'accordo in tasca hanno annunciato il prolungamento del contratto in Portogallo, e l'Inter si è vista costretta a rendere pubblica la notizia nel cuore della notte. Resta la clausola rescissoria reciproca: Mourinho potrà lasciare il club versando 7 milioni di euro, l'Inter pagherà una cifra identica in caso di esonero. Questa è la versione di Fabio Monti del Corriere della Sera, io sono certo che è quella esatta. Si negano anche ritocchi economici all'insù, che invece risulterebbero ad altre fonti. Il servizio poi continua con toni altrettanto duri. Di certo la scelta fatta con Mourinho, per il modo in cui è stata gestita, indebolisce la società nei confronti di tutti quei giocatori che ora potranno chiedere prolungamenti di contratti, aggiungendo magari anche quello che Mourinho non ha avuto, e cioè un ritocco. Ecco qui il passo. Ora Mourinho, conclude Fabio Monti, potrà concentrarsi nel tentativo di dare finalmente un gioco all'Inter. Prima di arrivare alla vicenda Milan e di approfondire quella che riguarda l'Inter, completiamo il discorso europeo con l'intervento di Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno. buongiorno Gigi, buongiorno gli ascoltatori. Allora, abbiamo esaminato, il se parliamo di finale, il versante spagnolo, se parliamo di Europa, il côté tedesco, francese e anche lì qualcosina di spagnolo. Io chiederei a Nicola, prima di arrivare a Manchester United, di raccontare brevemente, con ovvie proiezioni italiane ma che possono addirittura essere sottintese e capirete subito perché, di raccontare il finale di campionato di domenica scorsa di Premier League. Un finale abbastanza classico, c'erano quattro formazioni in ordine di classifica: Sunderland, Hull City, Newcastle e Middlesbrough impegnate ad evitare gli ultimi due posti della retrocessione, era già retrocesso West Bromwich Albion. Per combinazione tutte queste quattro squadre erano impegnate con formazioni che in qualche modo non avevano niente da chiedere alla classifica in termini pratici. L'Hull City giocava col Manchester, già campione d'Inghilterra, il Sunderland giocava col Chelsea, già terzo e comunque proiettato alla finale di FA Cup con l'Everton, il Newcastle giocava con l'Aston Villa che quinto o sesto non gli sarebbe cambiato nulla agli effetti della qualificazione alla prossima Europa League, ed il Middlesbrough giocava con West Ham di Zola che era centro classifica e non poteva più modificare la sua posizione in proiezione di qualificazione europea. Bene, è successo che hanno vinto tutte e quattro le squadre senza le cosiddette motivazioni e quindi la classifica sul fondo è rimasta esattamente quella che era all'inizio della giornata. Saranno Middlesbrough e Newcastle a dover retrocedere nella serie inferiore, e la cosa più importante da dire è che non ci sono state né gazzarre, soprattutto c'è stata grande civiltà da parte dei tifosi in tribuna e dei giocatori e allenatori della squadra protesta in campo, che si sono limitate a stringere la mano agli avversari che li avevano regolarmente battuti, b ad applaudire i tifosi che a loro volta hanno risposto con degli applausi. Credo che non ci sia bisogno di commenti, con la differenza di quanto è successo domenica a Torino. No, certo, e tra l'altro a proposito di quello che è successo domenica a Torino, è questione di poco ormai, potranno essere un paio d'ore, ma chissà che non riusciamo invece a dare il bollettino di guerra a questo punto già nel corso di questa diretta, perché anche per il Genoa, ma soprattutto per il Torino, arriva una stangata disciplinare di quelle che insomma faranno epoca nel loro genere. E in ogni caso, ammesso e non concesso che il Torino abbia ancora delle possibilità di salvarsi, che sono molto molto remote, dovrà farlo quasi con la squadra primavera domenica all'Olimpico. Ieri Nicola girava una proposta di protesta clamorosa da parte di alcuni tifosi del Torino che dicevano: mandiamo per protesta a Roma a giocare la primavera domenica. Beh, ce la manderanno lo stesso, quei titolari più o meno li squalifica tutti o quasi, no? Guarda Gigi, tanto per rendere più leggero il clima, fosse accaduto 20 anni fa col Torino che giocava con la primavera era un grosso vantaggio. Eh beh, certo, era spesso molto più forte la prima squadra. Oggi purtroppo la primavera del Torino anche a livello di risultati segue la prima squadra, in seguito all'abbandono della politica di Vivaio, che è l'unica politica che avrà potuto salvare il Torino, e invece dal settore giovanile praticamente non emerge niente. Ma poi vorrei sapere la protesta verso chi e verso cosa, perché la gazzarra l'hanno insegnata in scena di giocatori del Torino, ahimè aiutati persino da un dirigente che stava in panchina, questo segretario. Complimenti vivissimi fra l'altro a chi manda in panchina uno che, anziché tenere i nervi calmi, va addirittura a dare Monforte nelle risse, ecco, anche questo è il segno evidentemente dell'impreparazione del club. Pazzesco. Sì, fermo restando che ieri Cairo è riuscito anche a dire che gli incidenti erano stati innestati da Thiago Motta e non so chi altro, quando, voglio dire, già a partita ancora a piena partita in corso, Abate ha avuto un raptus. Fallo su Juric, assolutamente, cosa, e quello ha scatenato. Vabbè, ma lasciamo queste miserie locali. Tu ci hai raccontato dell'ennesimo finale limpido in Inghilterra. Io facevo notare pochi minuti fa a Fabio Tavelli che così non è andato in Spagna, perché io non so se al Manchester cambiarli tutti e vincere ugualmente se gli sia andata bene o se fosse un rischio calcolato. Di sicuro è che la stessa operazione tentata da Barcellona con l'Osasuna è fallita, e la vittoria dell'Osasuna a Barcellona ha falsato completamente la zona retrocessione in Spagna. No, il Manchester ha mandato in campo in effetti tutti i giocatori che non sarebbero stati impegnati nella finale di Champions. Va detto che però tra questi giocatori c'era Fletcher, che sarebbe stato sicuramente titolare se non era squalificato, certo. Si è ricevuto la squalifica, c'era un giocatore come il portoghese Dani, che è un grosso talento, c'era Wes Brown, che è un giocatore che purtroppo quest'anno ha giocato pochissimo per infortunio, ma in realtà è di fatto un titolare, l'anno scorso era in campo a Mosca nella finale con il Chelsea, c'era Rafael da Silva, il giovane brasiliano, c'era il portiere Kuzak, che comunque un'ottima copertura per Van der Sar, c'era Gibson, che è stato l'autore del gol, che comunque è un nazionale irlandese di tre pattoni. Ecco, il Manchester, anche schierando la seconda barra terza squadra, ha comunque una formazione così competitiva che è riuscito poi a spuntarlo ugualmente contro una squadra soprattutto brasile. Quindi in qualche modo era un rischio abbastanza calcolato, ecco. Nicola, arriviamo alla vigilia Manchester. Tu adesso ci stavi appunto raccontando e ricordando chi non giocherà, chi non potrà esserci. Parliamo di quelli che ci saranno e cominciamo magari a capire col tuo aiuto, sia pure in sintesi, perché insomma, la marcia d'avvicinamento è ancora lunga da qui a domani sera, perché pur a parità di quote sono state ribadite ancora pochi minuti fa e praticamente tutti i bookmaker continuano a quotare alla stessa cifra, con gli stessi numeri, sia le rispettive vittorie sia i rispettivi punteggi di vittoria, cioè anche nei dettagli, perché in realtà si sta facendo strada la sensazione che sia il Manchester ad essere favorito. Ma guarda, io parto da un vecchio adagio che per la verità non è calcistico ma è del football americano, football inteso come quello con la palla ovale che si gioca negli Stati Uniti, e cioè che l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite. E io guardando le due difese vedo che il Barcellona è privo dei due giocatori di fascia laterale, Abidal e Dani Alves. Dani Alves è importante anche in proiezione offensiva. Manca l'altro centrale che faceva coppia con Puyol, che è Marquez, che è infortunato, è mancato per tutta la stagione Gabi Milito, il fratello dell'attaccante del Genoa, quindi di fatto l'unico titolare della difesa del Barcellona sarà Puyol. Già è una difesa che non è esattamente in linea con la forza del spaventore del Barcellona da centrocampo in su. In queste condizioni, con la velocità dei giocatori del Manchester, io credo che la deficienza difensiva del Barcellona potrebbe veramente fare la differenza, anche perché sull'altro lato, parlando sempre di difesa, sembra proprio che il Manchester riuscirà a recuperare Rio Ferdinand, che è il leader di questa squadra, non soltanto a livello difensivo, ma il leader vero, è il leader dello spogliatoio, il leader in campo, è quello che dà sicurezza. Non a caso l'unica volta in cui il Manchester ha sofferto in questa Champions League è stata l'andata dei quarti di finale con il Porto, è finita 2-2, il Manchester ha subito due gol in casa, avrebbe potuto anche subirne di più perché il Porto ha avuto anche altre importanti occasioni, casualmente era la sera in cui mancava Rio Ferdinand. Quindi credo che il recupero di Rio Ferdinand sull'altro fronte sia invece particolarmente importante. In questo senso condivido le dichiarazioni di Lippi, che sono state riportate questa mattina in un'intervista alla stampa, che insomma, pur considerando la forza spaventosa delle due squadre, vede il Manchester proprio più completo in questo senso, proprio perché ha un attacco che magari non è formidabile come quello del Barcellona, fa però riscontro una difesa che a mio parere è infinitamente più solida. Ho perso un sacco di soldi, scrive Franco da Vicenza, su due schedine per mancate vittorie di Toro e Newcastle, ma la colpa è della mia mentalità italiana. È bella questa autocritica di questo ascoltatore vicentino, ripeto, di nome Franco. Grazie Nicola. Grazie, grazie agli ascoltatori. Torneremo a sentirci in questi giorni, prima e dopo questa attesissima finale, oggettivamente la più bella partita di calcio che possa andare in scena oggi al mondo, nazionali compreso ovviamente, anche perché ormai le nazionali sono meno ricche, meno e quindi meno dotate tecnicamente di queste grandi squadre di club. Mario ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto una comunicazione di servizio ai vostri tecnici. A Verona abbiamo problemi di ricezione. Ecco. Questo è grave, perché se abbiamo problemi a Verona è grave, perché a Verona siete... Infatti lo sto vedendo sul display, anche da parte di alcuni altri ascoltatori. Va bene, ecco, messaggio arrivato. Senta, io domenica ero allo stadio, sì, alla festa del Chievo, perché insomma, come tutte le partite del Chievo, è sempre una festa. E ho visto la schifezza, mi perdoni il termine, dei tifosi del Bologna, ed era una risposta indiretta a coloro che qualche settimana fa hanno giustificato i tifosi della Juve sostenendo che Balotelli è antipatico e quindi gli stavano bene i fischi. È stata una roba indecente, e volevo semplicemente fare i complimenti a Farina, all'arbitro, perché ha dato un bel segnale. Mm-hmm. Ecco, semplicemente questo. Sì, sì, sì, io amplierei il discorso perché appunto, a me se non concesso che Barotelli sia antipatico, e diciamo pure che in parte lo è, non si può certamente definire antipatico Luciano o Luciano, che dir si voglia, l'esterno storico del Chievo. E per chi non ne fosse al corrente, per l'appunto, domenica si sono verificati due episodi di cori razzisti in Italia, quelli per cui è arrivata una normativa UEFA che è stata recepita dalla nostra federazione e che suggerisce, trattino impone all'arbitro, in caso di cori di connotazione razzista, di sospendere la partita, prima un avvertimento e poi, se la cosa si ripete, un'eventuale sospensione. Bene, anzi male, a Cagliari un giovane arbitro debuttante, nonostante questo trattamento incivile riservato a Vieira, non ha ritenuto di, e in parte Ibrahimovic non è intervenuto, mentre l'arbitro Farina invece a Verona, Farina era lo stesso che aveva tollerato e diciamo pure fatto orecchi da mercante, come tutto lo stadio di Torino ha fatto orecchi da mercante, allenatori e capitani e giocatori compresi. Farina invece, dopo che questa normativa è stata recepita, domenica è intervenuto, ha fatto sospendere la partita per qualche momento, ha fatto annunciare all'altoparlante che in caso di cori reiterati la partita sarebbe stata interrotta, e a quel punto anche i signori ultra bolognesi l'hanno capita e l'hanno smessa, come d'altra parte è normale che sia. Giornata difficile, segnalano gli ascoltatori, perché ci sono problemi di ascolto, di ricezione anche a Mantova, anche a Brescia, a Macerata, segnala un altro ascoltatore. Adesso, speriamo che tutto un po' alla volta si sistemi. Ma perché, domanda Gianni da Torino, parlate solo di quanto è successo a Torino sorvolando sul vergognoso inciucio tra Chievo e Bologna? Lei non deve avere le idee chiarissime, caro Gianni, sul concetto di inciucio. Non ha mai sentito dire che quando una squadra si salva, gioca in casa, si salva, e per salvarsi gli basta un punto, è probabile che giochi per essere sicuro di non perdere. È esattamente quello che ha fatto il Chievo domenica, senza nessun inciucio, semplicemente ha badato a non prenderle, e il Bologna ha fatto un calcolo che si è rivelato sbagliato, ma che alla fine gli è andata bene. Cioè, il Bologna è partito dal presupposto che ci sarebbe stata ancora all'ultima giornata aperta la lotta tra Roma e Palermo per l'ultimo posto UEFA, perché era convinto, ha fatto i suoi conti di previsione e pensava che la Roma a San Siro non avrebbe vinto. Cosa significa questo? Significa che se anche il Torino avesse battuto il Genoa, secondo il Bologna, restando a tre punti, andando soltanto a tre punti, cioè il Bologna pareggiava a Verona, il Torino batteva il Genoa, restavano tre punti, ma con la Roma impegnata ad ogni costo per l'UEFA, la Roma avrebbe poi battuto il Torino e il Bologna, battendo il Catania, lo raggiungeva tre punti più sopra, e in virtù del vantaggio nei confronti diretti, avrebbe avuto ancora ampie speranze. Anzi, questo è il conto che ha fatto il Bologna. L'ha sbagliato perché come è noto la Roma invece ha vinto a San Siro, ma questo è un periodo in cui al Bologna gira tutto talmente giusto che non ha nemmeno bisogno di inciuci, perché al 94esimo gli va dentro la palla in quel modo contro il Lecce, era una partita che doveva perdere, non pareggiare, e invece l'ha vinta. A Torino si è salvato da una traversa a tempo scaduto nell'ultimo assalto del Torino. Insomma, è girata così, purché non si stravolga la realtà e non si parli di inciucio tra Chievo e Bologna, perché quello era un pareggio che non sa di inciucio, sa solo di realismo. Persino nel campionato britannico, secondo me, quella partita sarebbe ragionevolmente finita pari. Ha chiamato Stefano da Verona, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto un complimento, ma veramente la vostra trasmissione è una gemma nel panorama delle trasmissioni calcistiche, che sono veramente un disastro, specialmente la televisione. Mi stupisco come non si ci riesca a capire che, partendo già dalla qualità delle trasmissioni calcistiche, si potrebbe fare un passo avanti nel migliorare questo calcio che veramente fa schifo, voglio dire. Per cui niente, la prima cosa voglio dire è questa. La seconda riguarda gli episodi di Torino, cioè si parla di una stangata anche per i giocatori del Genoa, che trovo sarà veramente, adesso senza fare un processo a cose che devono ancora venire, questi qua hanno giocato le loro partite, sono stati aggrediti fisicamente, prendiamo l'esempio di Oliveira, ha preso un pugno nella faccia che avrebbe tirato giù un pugile dei massi, in più facilmente dovrà anche prendere una stangata perché ha avuto un minimo di reazione umana, voglio dire. Mi sembra che sia un po' esagerata, ecco, la stangata anche per i giocatori del Genoa. Beh, dipende da come si è comportato qualcuno, insomma, non è che poi ci sono sempre solo, ci possono essere solo i peccatori da una parte e i santi dall'altra, eh. Io su questo ci andrei un po' pianino. Piuttosto mi segnala un ascoltatore che sono in debito di una lettura, nel senso che vi ho dato conto prima di come sul Corriere della Sera di oggi Fabio Monti ha raccontato il finale, poi vediamo, della vicenda Mourinho-Inter e di come invece Alberto Costa, ecco, vi sono debitori di come Alberto Costa racconta come sia ancora invece aperta ufficialmente, ma in realtà chiusissima, la vicenda Milan. Alcuni passaggi dell'articolo di Costa. Il cavaliere bontà sua è convinto che il Milan con Ronaldinho titolare avrebbe vinto lo scudetto e noi ovviamente non abbiamo alcuna intenzione di strapparlo al suo fantastico mondo di panna montata. Certo è che la sua opera di demolizione di un tecnico che ha vinto molto più di Tabarez, ma che sostanzialmente è stato trattato come Tabarez, è parsa impietosa. Così, confuso e imbarazzato Ancelotti e disorientati i giocatori, il Milan si è piantato sui pedali e rischia di vedersi soffiare dalla Fiorentina quel terzo posto che gli consentirebbe di dribblare gli sciagurati preliminari in Champions. La sensazione è che nei giorni di questa calda primavera il Milan stia navigando a vista. Berlusconi ha imposto un allenatore, Leonardo, che allo stato non è in grado di allenare possedendo il semplice patentino di terza categoria, quello che va per la maggiore nei tornei aziendali. E tra i giocatori sono diffuse le incertezze sull'avvenire del club, sulle sue strategie, sul suo effettivo desiderio di cambiare per migliorare. A noi, per esempio, piacerebbe conoscere il reale status di Kakà. È un tesserato rossonero oppure è un ostaggio della Fininvest in attesa di essere piazzato il miglior offerente? Il rebus è tutt'altro che retorico. Dalla sua soluzione può dipendere la credibilità del Milan del futuro. Il Milan di oggi può soltanto mettersi davanti alla TV, assistere a Manchester e Barcellona in attesa di incrociare Alberto Girardino e tutti i sassolini nelle sue scarpe. Meglio farsi il segno della croce. Vittorio da Parma, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. No, io intervenivo sul fatto degli ultra, il discorso è questo: a parte non è sia cambiato niente confronto agli altri anni, perché tutti gli anni dicono faremo, diremo. Io stavo guardando Controcampo, le dico anche la trasmissione, al che è intervenuto il responsabile, c'era scritto una cosa assurda, mi veniva sin da ridere, dei tifosi del Milan, che dava le sue spiegazioni su quanto successo per Maldini. Adesso io dico, ma se io divento capo degli ultra di Radio 24, mi posso telefonare, non so, telefono a Deborah Rosciani e a Salva Danaio e gli dico che certe cose non mi stanno bene. Se mi chiederà chi sono, risponderò: sono il capo degli ultras di Radio 24. Cioè, siamo veramente al patetico. E soprattutto gli viene data possibilità a questa gente di intervenire in trasmissione. Poi chiudo, l'ultima e chiudo. È questa mania dei tifosi di sospendere la partita, ogni cosa che succede, mi dispiace per quel ragazzo di Vicenza, soprattutto per lui e per i suoi genitori, però si attaccano tutto, loro vogliono, signor Gigi Garanzini, riuscire a sospendere una partita, ce la devono fare, in qualche modo ce la devono fare, è vergognoso, tutto qui, la saluto. Su quest'ultimo punto sono un pochino più perplesso. Sui precedenti, beh, è facile, non è che loro vogliono visibilità, ma stia pur certo che non è fine a se stesso. L'ultra vuole visibilità, ma non perché fa rima, ne ha bisogno come dell'aria, ma non è che questa visibilità la vuole per megalomania, la vuole per monetizzarla, la vuole per quattrini, evidente, perché più sei visibile, più hai peso e più monetizzi. Se poi vogliamo usare la parola ricatto, ricattando la società, diciamolo pure in maniera chiara. Se non ci fossero le commistioni che ci sono state in tutti questi anni tra gli ultra e le società, stia pur certo che domenica scorsa non sarebbe andata in quella maniera l'addio di Maldini, così come tante altre cose non andrebbero in quella maniera. Ci sarebbe la rubrica del Giro d'Italia, in effetti, ma adesso ho due ascoltatori già collegati che mi spiace un pochino far rimandare, a parte che c'è un veronese che mi scrive, Fabrizio, dice: grazie, è intervenuto lei e a Verona va già meglio, se c'ho giusto la bacchetta magica per le onde magnetiche, o come accidenti o erziane, o come accidente si chiamano. No, è che ve l'ho detto altre volte, voi segnalate i tecnici in ascolto, ovviamente sempre in ascolto, in tempo reale, cercano di provvedere. Poi la bacchetta magica non c'era nemmeno loro. Da Bergamo, Massimo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo sapere come si è comportata la società Milan domenica. le spiego, praticamente tutte le società dicono facciamo entrare i bambini allo stadio, le famiglie allo stadio. Domenica c'era l'ultima partita dei Maldini, doveva essere una festa, non hanno venduto i biglietti ridotti. E quindi io per portare mio figlio ho dovuto pagarmi il biglietto intero per poi tenermelo sulle ginocchia allo stadio, perché chiaramente il posto disponibile non c'è. Poi mi hanno perquisito con mio figlio sulle spalle col metal detector e poi entri in curva e ti trovi striscioni di 20-30 metri con scritto quel che c'era scritto. Io mi chiedo, ma la società Milan dov'è? Buongiorno, la ringrazio, signor Gigi. Buongiorno a lei Massimo, non sarà certamente come lei dice, io ovviamente non dubito minimamente della sua parola, ma insomma, devo prendere con beneficio d'inventario. Il rilancio nell'etere di queste cose avvengono evidentemente di queste e di altre, senza la possibilità di un controllo diretto, immediato, ma le ripeto, in genere di mitomani qui a questi microfoni ce n'è pochini, al massimo ce n'è qualcuno sul display dei messaggi, ma insomma questo dice che il bugiardo non è certamente Mourinho. Scrive un ascoltatore con un messaggio lunghissimo, Luca da Verona, che poi si interrompe, è difficile davvero da ricostruire. No, ma infatti può benissimo non essere un bugiardo Mourinho, anzi ha dimostrato in tutti questi mesi di essere una persona talmente specchiata nei comportamenti e nella sua coerenza che è impossibile che lo sia. Sarà Florentino Perez allora il bugiardo. Quello che è certo è che uno dei due lo è. Poi non so, si facessero uno spareggio loro, ma certamente uno dei due sì, se non è l'uno è l'altro. Io ho un'idea, però insomma, l'idea mia sarà sbagliata, certamente anche preconcetta, avendo questa simpatia viscerale per Mourinho fin dal primo giorno, non in Italia, dal primo giorno che allenava in Inghilterra. Marcello Milano, buongiorno. Carissimo, buongiorno. Dica. A lei. Intanto la ringrazio per darci questa oretta che ci rende veramente felici. E poi niente, volevo parlare del Milan. Una prima più battuta, me la consenta, del campionato inglese, Garanzini, non gliela do molto atto, perché si è notato gli ultimi tre risultati del campionato inglese, le ultime tre che stanno retrocedendo contro squadre assolutamente tranquille hanno perso. Cioè lì proprio la cultura del pareggio credo che non esista proprio. È quello che abbiamo detto fino adesso, quello che raccontava Nicola. Certo. È quello che raccontava Nicola Roger. Infatti, scusi, allora che non l'ho seguito. È il contrario di questo mondo. E infatti, per il Milan, sono andato a vedere Milan-Roma, credo che abbiamo toccato proprio il fondo della squadra rossonera, proprio visto una squadra totalmente allo sfascio, appunto con un Kakà completamente fuori da qualsiasi gioco. E condivido quasi pienamente l'articolo di Alberto Costa che lei ha letto. L'una piccola cosa, Garanzini, Ancelotti mi ha sorpreso domenica, ha riacciuffato il 2-2 miracolosamente, nessuno è stato in grado di dire, non so, Fiorentina sta per giocate la palla, tenete la palla, avevamo Seedorf, Pirlo, in teoria grandi palleggiatori, invece Milan anche gli ultimi minuti andava all'attacco in modo tra l'altro. Però è arrivata una punizione, insomma, questo ha segnato su una palla da fermo e questo può sempre accadere, insomma. Sì, poi forse una gestione, ma era un Milan abbastanza squinternato, lo si è visto. Quello di queste ultime giornate, quello destabilizzato per l'appunto di cui racconta Alberto Costa, dai, che mi sembra che sia una disamina bella completa quella, no? Che comprende anche tutto l'aspetto psicologico e ambientale. Torniamo con molti ascoltatori ancora collegati che dovranno essere un pochino sintetici, ma preceduti dal ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 maggio 1999. Il Manchester United di Sir Alex Ferguson ottiene la consacrazione internazionale conquistando la Champions League. Nella finale di Barcellona gli inglesi superano il Bayern Monaco per 2-1, ribaltando il risultato nel recupero in meno di due minuti grazie ai gol di Sheringham e Solskjaer. 31 anni dopo il successo ottenuto a Wembley dalla generazione di Bobby Charlton e George Best, gli uomini di Ferguson regalano così allo United la seconda Coppa dei Campioni della sua storia. La terza arriverà nel 2008. Tra le società plurivincitrici del trofeo, solo Manchester United, Nottingham Forest e Porto non hanno mai perso in finale. Eh beh, certo, quella fu una finale. Chissà come andrà quella di domani, nell'andamento. Da domani pomeriggio cominceremo a parlarne più in dettaglio. Sentiamo Massimo dalla provincia di Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Senta, volevo intervenire riguardo ai fatti di Chievo-Bologna. E a chi dice che la partita di di Verona è stata una combina. Io non la penso così, sinceramente. Io ero lì allo stadio, ho visto la partita. Posso dire che ci sono state anche delle occasioni di Bogdani, di Luciano. E forse la partita è stata, come dire, tra virgolette, chiusa a 10 minuti dalla fine, quando ormai le squadre avevano capito che il Toro stava per, che il Genoa stava vincendo Torino. No, il Genoa stava pareggiando a Torino, se è per quello. Sì. E allora lì sì, probabilmente c'era questa sensazione, ma ripeto, a mio parere è stata una partita vera, è stata una partita adesso anche combattuta per certi versi. Non esageriamo. Il caldo era enorme, sì. e quindi le squadre comunque alla fine hanno avuto anche qualche occasione. Tra sì, no, non esageriamo Massimo, dai, che i portieri non si sono sporcati granché, e il caldo c'era a Verona come c'era su tutti gli altri campi. Era una partita così che, insomma, chiunque avrebbe scommesso che sarebbe finita 0-0 e puntualmente finita 0-0, ma senza nulla di scandaloso. Cioè, quando gli interessi coincidono, no? e si gioca con decenza, con decoro, no, tutto questo non c'è. Gli scandali sono quando una delle due non è interessata a nulla, l'altra è interessata, e quella che non è interessata regala. Quelli sono gli scandali e quelle sono le pretese che alcuni tifosi avrebbero. Poi oggi sono i tifosi di un certo colore, ieri erano quelli di un altro, domani saranno quelli di un altro ancora, ma sono storie vecchie come non so quanto. Pietro da Torino, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un commento sulla partita di Torino. Sì. Io sono un tifoso granata da sempre, però riconosco che abbiamo meritatamente perso. Il Genoa ha fatto giustamente la sua partita, come normalmente in qualsiasi paese civile si dovrebbe fare, pensare. Però una battuta su quello che lei ha commentato sull'espulsione, quando ha detto che avendo fatto un brutto fallo forse si poteva aspettare una rivalsa da parte dei giocatori del Genoa. Io penso solo che la rivalsa non ci dovrebbe mai essere, neanche la violenza. Abate ha avuto l'espulsione che si meritava, con tutte le giornate che doveva prendere, come tutti i giocatori del Toro che sono stati coinvolti nella rissa. Però no, Pietro, intendevo dire, forse mi sono spiegato male, intendevo dire che l'innesco non è stato, secondo me, quello che possono essersi detti dalle panchine, non dalle panchine. L'innesco è stata quell'entrata demenziale di Abate. È stata demenziale, però non credo che sia comunque una giustificazione innescare, perché se io faccio un fallo vengo giustamente espulso, mi prenderò sì. La reprimenda dall'arbitro. Beh, però se io faccio un fallo un minuto dopo che la mia squadra è praticamente andata in B ed è andata in B per via di un gol che l'avversario ha segnato con un colpo di testa quando nessuno se l'aspettava più, non è un raptus così che cade dal cielo, è un raptus mirato a conseguenza di quel fatto, o no? Secondo me no. Bisogna scindere due cose. Giustamente sportivamente lui deve essere espulso e prendersi tutti, anche perché non aiuti la tua squadra, uh-huh. Prima di tutto. Certo. Però secondo me se il Genoa ha sbagliato, ma soprattutto ha sbagliato il Torino, soprattutto con un dirigente in campo, è incredibile. Ma certo. Incredibile. Secondo me stiamo dicendo la stessa cosa, sa? Poi si può distinguere tra la responsabilità maggiore o minore, ma insomma. Mi pare che stiano dicendo, io dico soltanto che quando un giocatore perde la testa così in campo agonisticamente, poi è normale che elettricità di cose si trasmetta alla panchina, agli uni, agli altri, a chi gli pare, a chi dice la parola più grossa, a chi in quel momento è più sovraeccitato, eccetera eccetera. Daniele Milano, buongiorno. Dica. Prima cosa, domenica allo stadio, e non è vero che i biglietti ridotti non c'erano, perché io sono andato con mio nipote e mio figlio. E i biglietti c'erano. Bene. Quindi bene. E costavano 2 euro, prima cosa. Seconda bene. Cosa, ieri sera nella trasmissione su Radio Lombardia c'era il cosiddetto Barone, che sarebbe questo ci riguarda poco. Terzo? No, quello volevo dire. Loro usavano la scusa, la polemica su Maldini, no, perché la società. Adesso, io penso che faccia onore alla città Milan, che non si abbassi ai ricatti di questi tifosi, perché vogliono questo, vogliono quell'altro. Però questo nessuno lo dice. Daniele, se non si fossero mai abbassati ai ricatti di questi tifosi, non accadeva quello che è stato detto. Mettiamoci una pietra su a sta storia, no? Ma questo vale per il Milan come vale per chiunque altro. Nessuno si sarebbe mai sentito legittimato a fare un colpo del genere se in realtà in passato non avessero munto e multo con grande con grandi risultati, direi a me. Grazie Daniele. In chiusura la sigla Giro d'Italia. Voci dal Giro. Oggi è una voce un pochino più sintetica del solito, perché? Perché c'è il giorno di riposo, è l'ultimo prima del gran finale di questo giro emozionante. Sentiamo la voce, il commento dell'autore dell'impresa di ieri nella tappa, una delle due tappe chiave del giro, l'altra sarà domani al Blockhaus. Sentiamo Sastre. Sapeva che aveva una possibilità di fare qualcosa e lo ha fatto, no? La squadra ha lavorato molto bene, mi hanno aiutato tanto durante tutto il giorno e dopo sulla ultima salita, no? Forse Ivan era, penso, il più attivo di tutti, ha fatto il primo stacco, ha giocato un pochino furbo con loro e potevo andare un pochino avanti, no? Ancora mancano oltre due molto importanti, no? Penso che questo giro non è finito e tutti siamo qua per trattare di vincere, no? Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro. Saluti frettolosi. Grazie a Giacomo Spunta in regia, Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio, a domani.